24. La storia. Walter Bonatti, fotografie dai grandi spazi, è il titolo della mostra che si inaugura oggi a Palazzo della Ragione a Milano. Alessandra Mauro, insieme con Angelo Ponta, è la curatrice della mostra. Con quale scopo è nata questa esposizione? Buongiorno Alessandra Mauro. Buongiorno. Lo scopo dell'esposizione è quella di mostrare un lato non troppo noto di Walter Bonatti. Molto spesso si parla, si conosce Walter Bonatti, si sanno e si ammirano le sue spedizioni in montagna, si ricorda appunto i racconti per epoca in cui andava a narrare le spedizioni nel mondo, ma forse troppe poche volte ci si è soffermati sulla qualità e la forza delle sue immagini. Alla fine è un grandissimo fotografo. Alla fine sì, un grandissimo fotografo, un grande comunicatore anche con le immagini, con la macchina fotografica. Con la macchina fotografica e soprattutto anche la possibilità di non solo realizzare delle foto molto interessanti, ma di decidere che il personaggio che animava queste visioni, questi paesaggi, doveva essere lui stesso. Ecco, sono tutti, per così dire, paesaggi ambientati, quelli che possiamo vedere. E cioè appunto lui è un selfie ante litteram. Un selfie ante litteram, esattamente, è lui il personaggio, il protagonista dei suoi stessi racconti visivi, e questo secondo me è una forza molto importante. Come avete raccolto il materiale? Allora, abbiamo raccolto il materiale negli archivi messi appunto a disposizione. Come l'avete scelto? Della famiglia. È stato un lavoro molto, molto laborioso, perché abbiamo scelto in base a tutte quelle che possono essere così, questo forziere gigantesco di immagini da diversi viaggi del mondo, cercando le immagini più forti, le immagini più significative, e componendo poi un percorso che non vuole essere cronologico, ma vuole essere come se tutte le immagini raccontassero un unico grande viaggio, quello nel mondo. Quanti sono gli scatti? Sono un centinaio, non sono tantissime, sono un centinaio, sono di dimensioni abbastanza grandi. E quanto grandi, per avere un'idea? Dunque, la maggior parte sono grandi 1 metro per 80 centimetri, ma ci sono anche 7 gigantografie di oltre 2 metri che interrompono il flusso di questi selfie in giro per il mondo, per dedicarsi invece, per concentrarsi soltanto sulla contemplazione del paesaggio, come se quello fosse, come di fatto poi è stato, il fine ultimo di tutti i viaggi, di tutte le esplorazioni, di tutte i reportage di Walter Bonatti, riuscire a sentire la natura e sentirsi dentro la natura. Grazie Alessandra Mauro. Grazie. Il fatto che non riesca a star lontano dalla montagna vuol dire che è la mia vita. Bonatti ha scritto con la sua vita quello che pensava, come vedeva il mondo. Che poi avesse un suo carattere duro e forte, questo però, per fare quello che ha fatto, forse bisognava avere la tempra, il carattere e la testa di Bonatti. Lei con la montagna è diventato ricco? Ah, materialmente certamente no. Moralmente invece ritengo parecchio. Ognuno ha la sua parete da scalare. È bello sapere che c'è qualcuno che ha scalato delle pareti inviolate e forse inviolabili per chiunque. Una leggenda dell'alpinismo, un mito inarrivabile per chiunque ami l'avventura, ma soprattutto un uomo libero. È Walter Bonatti, bergamasco del 1930. Li avete sentiti? Così parlano di lui l'alpinista esploratore Reinhold Messner, l'alpinista Nando Nusdeo e il giornalista Michele Serra. In questo ultimo racconto, autorizzato da lui stesso prima di ammalarsi durante l'estate del 2011. Il 13 settembre del 2011 muore a 71 anni Walter Bonatti, ma la sua compagna Rosanna Podestà decide di rispettare la sua volontà e contribuisce alla realizzazione di questo racconto che comincia con l'ultima impresa di Walter. La conquista della parete nord del Cervino, in solitaria d'inverno. Forse la scalata più bella, da molti considerata quasi un'opera d'arte. Di sicuro un'impresa che allora, siamo nel 65, viene considerata semplicemente impossibile e che oggi riviviamo attraverso le parole di Walter Bonatti. Quanto tempo è passato dalla scalata del Cervino? 4 anni. La rivede? Eh sì che la rivede. La rivede tutta? Tutta, sì. Io non salgo sul Cervino, io salgo, se sono Bonatti, sul Cervino secondo una certa idea, per una certa linea. Questa linea, questo stile, questo come avvicinarsi al Cervino nel 65 è stato inventato da Bonatti. Il 18 febbraio Mario De Biasi, il fotoreporter del settimanale Epoca, scatta le ultime fotografie di Walter che si allontana. Bonatti tentenna, Mario lo saluta ancora, in qualche modo lo sostiene, come ci racconta lui stesso. Io ho visto che lui era così, non dico titubante, ma insomma era un periodo di crisi, e ho detto ti accompagno io un po', e ho detto agli amici voi tornate giù e vado io insieme a Walter Bonatti. E sono arrivato fino a Capanna Early, 3.400 metri di altezza. E poi io ho aspettato finché lui è arrivato sotto la montagna che c'è lì davanti. E io ci eravamo in contatto alla sera alle 7 con una lampadina. Io dormivo in una centrale elettrica da solo, e alla sera alle 7 ci facevamo un segnale per vedere a che punto era arrivato, perché solo io conoscevo la strada che lui faceva per andare su. La sua è una sfida che va oltre la prestazione fisica, oltre la dimensione sportiva. Il 22 febbraio del 1965, un aereo fotografa Walter Bonatti abbracciato alla croce sulla vetta del Cervino. Non sono che il contabile dell'ombra di me stesso. Se mi vedete qui a volare... La montagna è specialmente creatività e immaginazione. Come un artista inventa una sua espressione, noi con l'alpinismo ci possiamo anche esprimere. E secondo me Bonatti era molto più artista che sportivo. Cerco me stesso, cerco la mia vita, cerco di vivere il più intensamente e il più degnamente possibile. Cerco la pace e l'equilibrio in me stesso. E questa ricerca di Walter Bonatti segna la storia della sua vita. Una storia che inizia sulle acque del Po, dove un bambino è costretto a crescere durante la guerra, i genitori sono lontani. Il padre è un antifascista e la madre deve mantenere la famiglia. Cresce in compagnia dei libri di Melville e London, sognando avventure di un mondo che può solo immaginare. Finita la guerra, si sposta a Monza per trovare un lavoro nell'acciaieria. Qui conosce gli alpinisti operai del gruppo Pelle e Ossa. Pelle e ossa, perché così sono ridotti quei ragazzi appena tornati dalla guerra. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti, un incredibile esploratore dei luoghi più remoti e impervi del mondo. Siamo nel 1949 e Walter inizia una rincorsa spostando ad ogni salita i suoi limiti. Nord-ovest del Badile, sud-ovest del Croz, dell'Altissimo sulle Dolomiti e poi il Monte Bianco con l'ovest della Guinoire e lo sperone nord della Punta Valcher delle Grand Jorasses. Le conquista tutte in un solo anno. C'è una reazione incredibile, qualcuno parla di acrobatismo, come si diceva allora, al posto di alpinismo. Qualcuno dice che avevano ferrato la parete, avevano piantato 200 chiodi, in realtà i chiodi erano poco più di una trentina. Io ho visto tutto questo materiale a casa di Walter, era un materiale assolutamente rudimentale con cui oggi nessuno andrebbe più in montagna. Un altro anno e una nuova sfida, il 1951, e Bonatti vince la parete est del Grand Capucin, un obelisco di granito rosso tanto liscio quanto verticale, una parete che sembra impossibile ma non per lui. Secondo me è uno dei capolavori, un territorio francese, quando tutti i più grossi alpinisti francesi giravano lì per cercare di farlo, lui è arrivato lì e ha fatto questa parete del Capucin che ancora oggi è un capolavoro di eleganza. Al terzo tentativo tocca la vetta insieme con lui l'alpinista torinese Luciano Ghigo, un traguardo importante che però lo lega a un grandissimo dolore, come ricorda con noi la sua compagna Rossanna Podestà. A proposito di questa scalata del Grand Capucin, che è stata mitica, il sindaco di Monza ha fatto una serata per Walter, cioè una serata in onore di Walter, e la mamma è andata col papà a questa serata, dove hanno fatto vedere le foto, dove gli hanno fatto un grandissimo onore e gli hanno attaccato una medaglia d'oro al petto. A quel punto la mamma, che probabilmente non era a posto con la pressione, ha avuto un malore ed è caduta per terra in teatro. Aveva avuto un ictus, stava morendo, l'hanno portata via e nella notte è morta. E questa cosa per Walter è stata terribile, proprio la tragedia greca, perché ritrovato la madre, lui l'ha uccisa, come dice lui. Cioè, la gran gioia che la mamma, l'emozione che ha provato per suo figlio, gli ha fatto questo effetto letale, per cui lui si sente colpevole. Questa cosa non se l'è mai tolta. Lui dice sempre, come Walter, non l'hai uccisa te. Sì, l'ho uccisa io, perché se io non avessi fatto la montagna, mia madre sarebbe vissuta. Io penso che una delle cose più rivoluzionarie per un uomo come lui e per un uomo di quell'epoca era: non voglio sottostare, non voglio diventare la rotella di questo grandioso meccanismo, che tra l'altro è un meccanismo che stava distribuendo benessere, che permetteva a un paese di uscire dalla fame, però era un meccanismo, e quindi ribellarsi a questo, cioè pensare ma io non voglio avere orari, io non voglio essere costretto dentro questi cubicoli dove tutti quanti siamo destinati a lavorare, io non voglio aspettare la pensione per essere libero, io voglio partire all'alba e voglio andare lassù. Beh, questo ovviamente è legatissimo al dopoguerra, però è una metafora assoluta, insomma, della libertà personale e della voglia di mettersi alla prova con altre regole. Un uomo libero e incapace di scendere a compromessi. Lo avete sentito il ritratto che ne ha fatto il giornalista Michele Serra. Nel 1954 Walter ha 23 anni. E ardito Desio lo chiama per partecipare alla spedizione italiana sul K2. La funivia li ha deposti sul ghiacciaio del Breithorn. La cerchia di montagne dominata dal Cervino è selvaggia, ma parrà familiare a ripensarla quando saranno sul Karakorum. Sono gli italiani che daranno l'assalto al K2, la seconda vetta del mondo. Nessuno è ancora riuscito a conquistare i suoi 8611 metri. Un'impresa dura e al limite della resistenza umana, come raccontano Luigi Zanzi, alpinista e professore universitario, e Pino Gallotti, anche lui con Bonatti, in quella spedizione. Il merito di aver trasformato una vicenda retorica di ispirazione nazionalistica in una vicenda singolare, individuale, di grandi alpinisti capaci di avventura, è tutto da ricondursi a Walter Bonatti. Il giorno 30 luglio all'ottavo campo ci sono Compagnoni, Lacedelli, Bonatti, Abram ed io, e anche due Unza, Isakan e Madi. Quindi c'è una specie di contrasto tra noi che siamo in questo campo e le bombe di ossigeno che non sono con noi, sono sotto, sono al campo settimo. Quindi alla mattina del giorno 30, dicevo, Compagnoni e Sedelli si avviano verso l'alto e Bonatti ed io scendiamo dall'ottavo al settimo a prendere queste bombole. Caricate le bombole in spalla, Bonatti e Madi iniziano a salire verso il punto convenuto, ma dove dovrebbero esserci compagni ad aspettarli non trovano nessuno. Cala il buio sul K2. Dopo Bonatti scriverà: ed ecco, incredibile, nel profondo silenzio si accende una luce. Avete l'ossigeno? Lasciatelo lì e scendete subito. Non posso, Madi non ce la fa. Metri, la tormenta è in furia. La piccozza scava con disperazione un gradino nel ghiaccio. Bonatti e Madi si legano per non congelare e iniziano a percuotersi. Sarà una notte infinita di follia e lotta per la sopravvivenza, fino a quando, come per miracolo, gli occhi di Walter vedono il nascere di una nuova alba. Madi, con la mente ormai alterata e gli arti assiderati, fugge. Bonatti, rimasto solo, con lentezza compie il proprio dovere. toglie la neve si è accumulata sulle bombole e le rende visibili ai compagni. Compiuto il suo dovere, Bonatti scende al campo 8. Madì è lì, è vivo, ma gli verranno amputate diverse dita delle mani e dei piedi. Compagnoni e Lacedelli conquistano la vetta del K2. È il 31 luglio 1954. Ma di quella notte nella relazione ufficiale non vi è traccia. Bonatti, come dirà in un'intervista molti anni dopo, ricorda con grande dispiacere quella grave mancanza. Tutti siamo uomini soggetti allo sbaglio, però proprio perché siamo umani e soggetti allo sbaglio, io mi sarei aspettato, nella mia semplicità, nella mia ingenuità, una manata sulle spalle, ammiccando magari, scusa Walter, le cose sono andate così. Io capisco che i miei compagni lassù fossero stanchi quanto me, forse anche più di me, fossero anche un po' così rintronati dalla quota, però, santo Dio, è gravissimo che in quelle condizioni, a quell'epoca, due uomini fossero là sul famoso muro di ghiaccio nella notte a morire praticamente, perché noi senza aiuto, io miracolosamente mi sono salvato, ma lo devo soltanto a me stesso. Una tenacia e un talento che forse fanno invidia a qualcuno. Nel 1964 un giornalista accusa Walter di aver rubato a Compagnoni e Lacedelli l'ossigeno per salire in vetta. Walter fa causa per diffamazione e vince. Nel 1994 Robert Marshall, un medico australiano appassionato di alpinismo, trova le fotografie di Compagnoni sulla vetta del K2. Si vedono le bombole e i segni lasciati dai respiratori. Nel 2004, dopo 50 anni, il club alpino italiano inizia la revisione della relazione ufficiale di Desio e nel 2008 finalmente per Walter finisce l'avventura del K2. La verità è una sola: la vetta è stata conquistata con l'ossigeno portato da Amadi e Walter. Io ero, allora, tra la spedizione all'Himalaya del K2 e la scalata del Dru, che passai forse la crisi più grigia della mia vita e la più importante, e dovevo in questo anno di crisi risolvetti questa crisi con la scalata del Dru. Ecco perché in un certo senso invidiavo quelli che non avevano bisogno come me di riscattarsi attraverso una prova così severa. Nel 1955 ha compiuto quella che è considerata ancora oggi la più difficile, la più straordinaria impresa alpinistica che sia mai stata compiuta ed è rimasta insuperata. Ha dato la scalata da solo ad una montagna che si chiama il Piccolo Dru, una montagna impressionante, da solo. Dunque 6 giorni e 5 notti appeso a questa parete, e fu tale l'isolamento che provai da giungere persino a sorprendermi a parlare da solo, a parlare col sacco, il mio unico compagno e vero compagno in definitiva. Quando mi trovai sullo spigolo dei Dru, ho passato i minuti forse più lunghi della mia vita, senz'altro i più lunghi, erano minuti che decidevano la mia esistenza. Non potevo tornare indietro, non potevo andare avanti. Prima pensai, in un momento di debolezza, di lasciarmi morire, e poi in fondo avevo lottato 4 giorni per vivere, non potevo certo lasciarmi morire così, e alla fine ho risolto il problema individuando delle scaglie di roccia 12-15 metri più sopra di me. Ho lanciato dei nodi, delle specie di bolas che facessero attrito sulle scaglie da fermare la corda per issarmi nel vuoto fino a queste scaglie. E quel pilastro di pietra in suo onore verrà chiamato Piglie Bonatti, proprio per celebrare quell'exploit extraordinaire, come diranno i francesi. Mix 24, la storia. Bentornati su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti, la vita di un uomo che sperimenta se stesso confrontandosi con la natura più impervia, compiendo imprese straordinarie, e tutto questo passa attraverso un talento eccezionale, ma anche attraverso un grande controllo di sé. Come si fa a vincere la paura? Bisogna affrontarla la paura, però bisogna sapere quel che si vuole, bisogna avere coscienza della paura che si vuol vincere e bisogna soprattutto, secondo me, conoscere il prezzo della paura. Nel 58 è sulle Ande e poi in Himalaya per salire il Gashbrum 4, in lingua urdu, montagna di luce. Capo spedizione sono Fosco Maraini e Riccardo Cassin, tra i più grandi alpinisti della storia e punto di riferimento di Walter. Una montagna difficile, il G4, tanto che verrà ripetuta solo nel 1986. Solo il 6 agosto sarà il giorno della vittoria. Ma quali fatiche, quali difficoltà dovranno superare i due per vincere l'affascinante montagna di luce? Senta Bonatti, lei ha scritto che la scalata del K2 e dell'Everest sono state solo conquiste materiali. Che voleva dire? In effetti sì, sono state la conquista di un punto geografico. L'alpinismo è un'altra cosa. L'alpinismo non è scalare le montagne per raggiungere un punto inesplorato. Sì, l'alpinismo è incominciato così, l'alpinismo esplorativo, ma l'alpinismo classico, come lo si intende oggi, è in fondo, con le sue tecniche, con le sue difficoltà, è una condizione che lo scalatore si pone per conquistare se stesso attraverso la conquista materiale della montagna. La cima è il punto dove cambia la direzione. Prima si va su e c'è l'ansia, forse non ce la faccio, poi ci costringe a scendere. E la cima, sì, importa, però non è il punto chiave, è tutta la salita che conta molto di più che il raggiungere la cima. È la salita che conta, lo avete sentito, era Messner e Walter sogna altre salite. Questa volta la sfida è il pilone centrale del Monte Bianco, un appuntamento al quale Walter pensa già da 9 anni. Domenica 9 luglio del 61 Bonatti parte con Andrea Oggioni e Roberto Gaglieni. La prima tappa è al bivacco della Fourche, una capanna di lamiera sospesa nel vuoto. Quando arrivano, 4 delle 6 cuccette sono occupate. Sono degli alpinisti francesi, Mazot, Coleman, Julien Guillon e Vieille. Decidono di salire insieme. L'alpinismo non è una gara. Il pilone centrale del Freinet e poi la discussione dopo è soltanto la dimostrazione che attorno a Bonatti c'è una grande invidia. Sono successi molte tragedie di questa dimensione e la maggior parte di queste tragedie non sono mai state discusse in un modo come hanno tentato di eliminare emozionalmente Bonatti dal grande alpinismo. Quando le cordate sono a soli 80 metri dalla cima del pilone si scatena una tempesta allucinante. È il preludio di una delle tragedie più terribili del Monte Bianco. Non c'era la possibilità di essere preso dall'elicottero, non c'era la possibilità di farsi un buco nella neve, perché lì non c'è. C'era soltanto la possibilità di scendere pezzo per pezzo sotto questo freddo, il vento, la disperazione. Non c'erano altre possibilità, dice Messner, per 3 dei 4 alpinisti francesi è la fine. Lentamente gli altri sono morti, lui non poteva caricarli in spalla e portarli avanti, è impossibile. Un uomo straordinario, e a dirlo è proprio Pierre Mazot, l'alpinista che assieme grazie a Bonatti è riuscito a sopravvivere a quella terribile tragedia. Tragedia nella quale ha perso la vita anche uno dei più cari amici di Bonatti, Andrea Oggioni. È stato eccezionale. Mi ha salvato la vita. Senza di lui sarei morto. È Pierre Mazot la prova vivente che Bonatti fece tutto il possibile per salvare quante più persone. L'alpinismo per lui è la ricerca dell'uomo, l'esplorazione dentro se stesso, e Walter vuole spostare ancora più in là il suo limite. Iniziano le sfide invernali del Monte Bianco con il granito dello sperone Walker sulle Grand Jorasses. E martedì 24 gennaio del 63 ci sono meno 20 gradi quando Walter e Cosimo Zappelli iniziano una nuova avventura. Ecco che distinguiamo Walter Bonatti e Cosimo Zappelli, che hanno superato il piccolo dietro, cioè essi si trovano ora in una posizione difficilissima non possono più tornare indietro, devono assolutamente raggiungere la vetta e per questo saranno ancora necessari 3 o 4 giorni. Il 27 gennaio il termometro segna meno 35. Bonatti e Zappelli salgono a 3050 metri e devono ancorarsi ad un chiodo per passare la notte. Non possono dormire o rischiano l'assideramento, ma la vetta è vicina. Walter non ha più niente da dimostrare. Tutto quello che si deve cercare è dentro di noi, ma serve molta strada per poterlo trovare. E Walter cammina per tutti e 5 i continenti da solo, raccontando la storia, i paesaggi, le persone e soprattutto la sua avventura personale, quella di un uomo di fronte a se stesso. Inizia la sua nuova vita al settimanale Epoca, come ci racconta il giornalista Angelo Ponta. Nel 1955 Walter scrive il suo primo articolo per Epoca e lo accompagna con alcune sue fotografie ed è il racconto della sua salita al pilastro del Drew, una delle sue imprese. Quella scrittura e quelle fotografie nel 1955 sono ancora ingenue e dilettantesche, però è uno stile di scrittura e fotografico che evolverà molto rapidamente nel tempo. Nessuno gli aveva insegnato a scalare, nessuno gli insegnò a scrivere, nessuno gli insegnò a fotografare. Lui impara facendo. L'avventura è stato un mezzo per, non fine a se stesso, per conoscermi, per sapere chi ero e cosa volevo. È stata trasposizione del verticale in un mondo orizzontale a 360 gradi per vivermi. Io ho raccontato l'uomo che è in me, non l'esploratore, non l'alpinista. Ci sono pochissime foto prima. Sulle grandi vie delle Alpi lui ha fotografato poco. Poi è diventato un ottimo fotografo, aveva scolari in tutto il mondo e lui aveva la grande fortuna e nello stesso momento anche la grande capacità di trovare un mondo inesplorato. Andava dove oggi i turisti ci vanno, però allora non c'era l'infrastruttura. Lui andava e aveva la capacità, cresciuta nel periodo dell'alpinista, a sopravvivere in Siberia, in Antartide. E il maggio del 1965 Walter parte per rivivere le avventure di Jack London, percorre in canoa lunghi fiumi per oltre 2500 chilometri. Incontra gli ultimi cercatori d'oro, si ferma in città dal nome mitico come Dawson City. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti. Siamo nella metà degli anni 60 e Bonatti si è cimentato in una nuova straordinaria impresa. È un'avventura anche editoriale. Attraverso il settimanale Epoca, Bonatti scrive dei suoi viaggi in giro per il mondo. Vive insieme ai pescatori di salmone, esplora i ghiacciai, incontra gli orsi e i leoni marini. È libero nella natura selvaggia, completamente assorbito da quella che diventa la sua dimensione. Il successo è immediato. Ogni volta che c'è lui in copertina, la rivista vende dalle 20 alle 30.000 copie in più. E per Walter inizia un lungo viaggio che durerà fino al 1979. All'inizio, non un'imposizione, ma un suggerimento del giornale, era quello di volermi vedere sempre presente nella mia immagine. Quindi di volermi vedere presente nell'azione che stavo vivendo. E io credo di essere stato, a quei tempi, l'unico ad avere a disposizione un'attrezzatura così sofisticata, che consisteva nel usare 3 macchine fotografiche contemporaneamente e di lunghezze focali diverse, preventivamente poste su cavalletti a distanze calcolate e azionate con un motore e una trasmittente ad onde radio, una piccola centralina non più grande di un pacchetto di sigarette, ad ogni tasto corrispondeva una macchina fotografica. Quindi io nel raggio di 500 metri potevo autoscattarmi dalle fotografie. In Africa attraversa 1200 chilometri a piedi in solitaria per poter sperimentare un nuovo rapporto con gli animali basato sugli istinti primordiali dell'uno e dell'altro. vive così un'avventura tra i coccodrilli. Riesce anche a tuffarsi fra loro, scattare delle fotografie incredibili. Il rapporto tra Bonatti e Epoca si conclude alla fine degli anni 70, intorno al 79-80, dopo qualche anno comunque di contrasti anche abbastanza accentuati. In quel periodo i giornali come Epoca, che avevano costruito molta della propria fortuna sull'immagine, sulla fotografia, sui fotoreportage, attraversano una fase di crisi per la concorrenza della TV e per l'accelerazione anche dei tempi imposti dai ritmi televisivi, e che verranno meglio interpretati poi negli anni seguenti dai nascenti news magazine. Walter non presta il suo volto alla pubblicità, a sponsor, rifiuta il meccanismo usa e getta della comunicazione, ha scoperto la scrittura. E i suoi libri vengono tradotti in diverse lingue. Il primo è del 1961 e continuerà a scrivere fino al 2011, raccontando le sue avventure, la sua vita, i ricordi con uno stile tutto suo, come spiega Giovanna Canton, che per la Rizzoli ha curato i suoi libri. L'ho conosciuto perché abbiamo preso il suo libro e abbiamo chiesto a un editor di fare una piccola revisione, e quando gli abbiamo rimandato il testo lui mi ha telefonato e si è messo a gridare, diciamo, come un pazzo, dicendo che nessuno poteva toccare il suo testo. E alla fine, quindi, sono dovuta andare a Dublino, ed è stato quando l'ho incontrato per la prima volta, e ho capito che toccare i suoi testi, il modo in cui lui aveva di parlare e di scrivere, che era un modo un po' per certi versi antico, era lui, quindi non era un uomo facile con cui trattare nella revisione dei testi, nel lavoro sulle cose che lui scriveva, ma sicuramente la ragione era dalla sua parte, e poi anche la ragione dei lettori che amano quel modo di scrivere, anche se non è certamente da letterato o non è un modo moderno di raccontare, però è il suo, quindi credo che era un bravo scrittore perché rappresentava se stesso, come anche in tutte le altre cose. Per sentirsi un po' di spazio intorno, non è necessario andare in Antartide o in Amazzonia, perché il vero spazio costruttivo, secondo me, è quello della mente. È lì che bisogna crearselo. Il bello dell'avventura è sognarla, dare aria all'immaginazione. Walter Bonatti è un grande personaggio con una grande umanità. Molto di più della sua capacità alpinistica, io stimo l'umanità di Walter Bonatti, negli scritti ma anche in quello che ha visto, sofferto, capito durante la sua vita. Walter nel 1980 incontra Rossana. Insieme compiono un viaggio che li porta a scoprirsi e a completarsi. Ci siamo incontrati, che ero già, anche lui, eravamo già delle persone adulte. Ho cancellato, diciamo, gli anni del mio lavoro nel cinema, che è stato un lavoro un po' subito, ma anche monotono per me, anche se non sembra il cinema, che non è che facessi meravigliosi film, per cui non ero entusiasta. Poi avevo già lasciato il cinema quando ho incontrato Walter, già da 6 anni, il che mi aveva svuotato, pronta a rivivere un'altra vita. Infatti, quando mi hanno chiesto con chi sarei voluto andare su un'isola deserta in una conferenza stampa, quando io ho detto Walter Bonatti, sono rimasti tutti un po' sconcertati perché non se l'aspettavano, ma per me era vero. Tommaso Vicario, nipote di Walter Bonatti, lei ha contribuito alla realizzazione della mostra Walter Bonatti, fotografie dai grandi spazi, che si inaugura oggi a Palazzo della Ragione a Milano fino all'8 marzo. Qual è stato il suo contributo? Sì, io sono in realtà nipote di Rossana Podestà, la compagna di Walter Bonatti, sì. Sono cresciuto con lui, che di fatto è stato mio nonno dalla nascita. La mia famiglia ha ereditato tutto il suo lascito, il suo patrimonio fotografico e le sue opere, e proprio da mia nonna Rossana è nata l'idea di contribuire, di fare una mostra fotografica di alto profilo su Walter Bonatti, e noi ci siamo presi l'impegno di dare continuità a questo desiderio, trovando in contrasto il partner ideale, in quanto appunto hanno potuto mettere tutta la loro competenza a servizio di un lavoro che, spero lo vediate presto, è davvero venuto un lavoro eccezionale. Qual è il ricordo più bello che ha di suo nonno? ce ne sono tanti, forse uno degli ultimi più belli è in un viaggio che abbiamo fatto nel deserto dell'Egitto, nel Gilkebir, tra Egitto, Sudan e Libia. Ho un ricordo di lui camminando tra le dune in totale armonia con il mondo che lo circondava e in profonda pace con se stesso, nonostante fosse già consumato da una malattia che poi lo avrebbe stroncato poco dopo. Qual è la foto che lei preferisce? Beh, forse proprio per questa ragione è una foto di lui che cammina tra le dune, lasciando dietro di sé una linea di orme che rappresenta, per me è importante proprio perché mi ricorda questa esperienza come nel deserto, ma anche per un'altra ragione. Quella è una foto scattata in Bolivia con l'autoscatto negli anni 70 ed è una foto che secondo me rappresenta molto il personaggio, perché era un di fatto il suo era un cammino abusivo. Lui non aveva ricevuto il permesso dalle autorità della Namibia per stare lì e decise, cioè, nonostante, di iniziare la sua marcia abusiva. Insomma, è un simbolo di appunto di libertà e anche del suo carattere. Cosa le ha lasciato suo nonno? Quale insegnamento? Me ne ha lasciati molti, senz'altro questa refrattarietà al compromesso è uno dei suoi valori più importanti, la ricerca della verità e la valorizzazione profonda della verità è un altro insegnamento. E poi senz'altro è uno che ha saputo veramente realizzare i propri sogni con una tenacia e una forza fuori dal comune, quindi insomma è un po' una prova del fatto che se uno i suoi bisogni li insegue con determinazione ce la può fare. La guerra che verrà non è la prima, al Marte di Rovereto fino al 20 settembre 2015. Vi ha presentato Mix 24.